di neve su cui fluttua l'armonia, suoni lievi e chi di risa ne son la fotografia. Ti senti preso nel tutto, nel cosmo fra stupore e magia, inni del cuore, la quiete del mattino, aspettando primavera. Un altro inverno, io e te tra ragione e fantasia, desideri in slow motion e baci che profumano di fiori. Un altro inverno, una fiaba tra incanto e nostalgia, intirizziti ballare nei campi con marzo che ci chiama da lontano, il calore di un ricordo e il sognatore che riprende il suo cammino, arde dentro e trema nel vento con la bellezza e la poesia. Quante volte ha preso il volo questo spirito inquieto, sorpreso ogni volta nel vedermi partire, ma ci son cose che non so spiegare. Un altro inverno, io e te tra ragione e fantasia, desideri in slow motion e baci che profumano di fiori. Un altro inverno, una fiaba tra incanto e nostalgia, intirizziti ballare nei campi col marzo che ci chiama da lontano.